Allora, buonasera a tutti, sono le 17.30, quindi cominciamo questo incontro insomma, importante per la seconda prova, diciamo ben riuscita, no? Di solito c'è la prima, va bene, quindi si fa anche la seconda prova di questo libro Chiesa e pedofilia, il caso italiano, un tema che Federico Tulli ha affrontato appunto già nel suo primo libro e che torna a affrontare con la specificità di quello che accade appunto in Italia. Io vorrei dire solo alcune cose, magari insomma mi siedo così so più comoda, credo che voi mi vediate insomma. Allora, intanto una prima considerazione, poi presento ovviamente gli ospiti, anzi li presento subito. Quindi abbiamo Fulvio Iannaco, docente di storia e filosofia, Andrea Masini e Domenico Fragnoli, entrambi psichiatri e psicoterapeuti. È il nostro autore, Federico Tulli. Allora, alcune brevi considerazioni. Intanto sul pontificato di Papa Francesco, perché se ne parla tantissimo, sembra raccogliere tanti consensi e si è caratterizzato fin dal principio attraverso una serie di gesti che, stando ai commentatori, hanno una forte valenza simbolica e in quanto tali, in una istituzione dogmatica arretrata, sarebbero di per sé rivoluzionari. Io ho usato il condizionale perché credo che sia doveroso, insomma, dobbiamo chiederci se questi simboli verranno davvero riempiti di contenuto, in particolare per quanto riguarda il tema che oggi stiamo affrontando, quindi la Chiesa e la pedofilia. Proprio qualche giorno fa Papa Francesco, di ritorno dalla Terra Santa, proprio in aereo, ha fatto un annuncio shock, insomma quello che viene definito un annuncio forte, ovvero terrà una messa con le vittime della pedofilia. E ha annunciato ancora una volta, come del resto lo aveva fatto anche Ratzinger, tolleranza zero. Questo di per sé potrebbe essere, come dire, un messaggio forte. Riporto però le sue parole, su cui poi immagino faremo tutti delle considerazioni. La pedofilia, ha detto Papa Francesco, è un problema grave. Un sacerdote che fa questo tradisce il corpo del Signore come nelle messe nere. E qui già c'è qualcosa che non quadra, insomma, perché ci dobbiamo chiedere qual è la relazione tra l'abuso su un minore e quindi appunto la violenza sessuale su un minore e le messe nere. Quindi ancora una volta la sensazione che questo reato venga considerato non un reato contro la persona, ma appunto un reato contro la morale. Federico Tulli nel suo libro ha spiegato molto bene l'atteggiamento della Chiesa in questi anni, l'omertà iniziale e poi in alcuni casi invece come dire, qualche timida apertura, ma mai una chiara e forte denuncia di questo fenomeno se non dopo l'esplosione mediatica seguita alla denuncia da parte delle vittime. D'altra parte è anche vero che sollevato il velo non ci si poteva più nascondere. Del resto è notizia recente, e ne parla ampiamente Federico nel suo libro, dello scontro tra la Santa Sede e la Commissione ONU sui diritti dell'infanzia, proprio per l'ambiguità in relazione alle politiche di difesa dell'infanzia, per aver ratificato la Convenzione in difesa dei minori del 1990, ma senza aver mai adottato politiche vere e serie, concrete, per tutelare i minori a rischio. E questo Federico ce lo racconta molto bene nel suo libro. Svelando appunto che ancora una volta la Chiesa non riesce appunto a far capire che la violenza sui minori non è un'offesa al Signore, semplicemente un'offesa, non è un'offesa alla morale, ma è ben altro. Vado molto rapidamente. Timide aperture ce ne sono state in questi anni e Federico le racconta, poi ne parleremo con lui. Ma non si è mai arrivati a un passo decisivo, nemmeno quando sono state pubblicate le linee guida della Conferenza Episcopale Italiana il 28 marzo del 2014, dove per la prima volta, se non sbaglio, si parla chiaramente di abuso sessuale nei confronti dei minori da parte di chierici e non di atti con minori. Ma non ci si spinge oltre, ovvero non si arriva a una condanna vera e propria di questi abusi sessuali e soprattutto non si prevede il dovere per i vescovi di intervenire come testimoni e quindi di denunciare i casi di cui si sia avuta conoscenza. In quanto giornalista, diciamo, non mi compete ovviamente raccontare quello che Federico con competenza ha fatto nel suo libro, né intervenire su temi di natura psichiatrica, perché abbiamo esperti qui accanto a noi che lo faranno molto meglio di me. Posso però soltanto dire qualcosa su quello che è stato l'atteggiamento della stampa italiana in tutti questi anni sul problema della pedofilia. È interessante, per esempio, dire che la vicenda forse più grave accaduta in Italia, che è quella appunto del collegio dell'Istituto Provolo di Verona, appunto, di abusi su 60 bambini sordomuti, è diventata un docufilm di Silvia Luzzi, che io peraltro conosco perché lavorava in Rai e poi è andata via. Questo, vabbè, è interessante. E docufilm che invece non abbiamo mai visto in Italia, ma se non sbaglio soltanto all'estero. A sua volta questa vicenda è diventata un film che è uscito poi nelle sale cinematografiche ed è passato del tutto inosservato. La mia sensazione è che anche la stampa non abbia dato un contributo serio in questi anni a questo problema. Probabilmente ci sono state reticenze, omissioni e forse anche paura. Mi piace, prima di dare la parola a Federico Tulli, raccontare un piccolo episodio di ritorno da Napoli dopo la presentazione di uno dei miei libri, appunto quello sugli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui Federico, devo dire, è stato accompagnatore, testimone, valido sostegno. Gli ho raccontato quello che era accaduto nel 2001, anzi nel 2000, 27 settembre del 2000, quando io venni indagata per divulgazione di materiali pedopornografico addirittura, perché era stato messo in onda un servizio al telegiornale che io avevo realizzato, nel quale per la prima volta si parlava di una delle più grandi operazioni contro la pedopornografia via internet, nella quale erano indagate ben 1600 persone. Indagine, inchiesta, nella quale peraltro veniva portata alla luce una vera e propria centrale di stupro di bambini, anche minori di 6 anni, che aveva sede in Russia. Quella vicenda, per una serie di ragioni che adesso insomma sarebbe troppo lungo raccontare, portò comunque alle dimissioni dell'allora direttore Gad Lerner e a una sorta di vero e proprio processo della stampa nei nostri riguardi. Essere considerati divulgatori di materiale pedopornografico, anziché appunto essere considerati cronisti che denunciano per la prima volta un fenomeno così grave, è qualcosa che fa veramente e decisamente male. Quindi direi che su questo anche la stampa italiana e noi giornalisti dobbiamo fare seria autocritica. A questo punto io vorrei chiedere a Federico Tulli, nel dargli la parola, come mai è tornato per la seconda volta a occuparsi di questo argomento e come è nato questo suo interesse per questo argomento? Grazie. Dunque, non so adesso se risponderò subito alla tua domanda, intanto grazie per tutto quello che hai detto. Mi prendo qualche minuto per fare dei ringraziamenti, e non saranno pochi, perché comunque scrivere questo libro non è stato affatto facile, quindi molte persone mi hanno aiutato. E comincerei senza dubbio da Lorenzo Fagioli e Matteo Fago, cioè i due editori dell'Asino d'Oro, che, e forse ecco qui in parte rispondo già alla tua domanda, mi hanno permesso di continuare un lavoro, un'inchiesta, una ricerca che ho già cominciato 4 anni fa con Chiesa e pedofilia, non lasciate che i pargoli vadano a loro. Ecco, questo lavoro ovviamente poi mio lavoro di ricerca e da cronista rientra nell'ambito di una ricerca molto più ampia, non saprei definire quanto, parecchio ampia, che è quella di Massimo Fagioli e dell'analisi collettiva. Ovviamente da questa mia esperienza nascono tutti gli spunti e gli stimoli che mi hanno poi portato, ecco, a costruire la mia inchiesta sia nel primo libro che nel secondo, in questo, Chiesa e pedofilia, il caso italiano. Un altro ringraziamento lo vorrei fare diciamo al cuore pulsante dell'Asino d'Oro, che sono 6 meravigliose donne che in questi mesi mi hanno sopportato. E sono Rossana Cecchi e Ada Montellanico, che sin da subito, quando più o meno un anno fa ho iniziato a avvertirle che mi stava venendo un'idea per scrivere un secondo libro, quindi per andare oltre quello che avevo già raccontato 4 anni fa, sin da subito mi hanno chiesto, mi hanno spronato, ecco, a mettere giù un progetto concreto che quasi sicuramente si sarebbe poi tradotto in un libro, e così è stato. Poi ringrazierei Valentina Pasquazzi, Valeria Iodice e Francesca Fiori per avermi supportato nei mesi di gestazione del libro. Valeria e Valentina anche dopo, perché sono loro che mi aiutano per l'organizzazione delle presentazioni. Ringrazio anche Raffaella Marchetti per la meravigliosa copertina, perché francamente è riuscita a individuare un bandone, un colore che corrisponde perfettamente a quello del colore della veste dei cardinali, di cui io parlo parecchio in questo libro, ovviamente non ne parlo bene. Ringrazio anche Pina Baroli e Margherita Biondi che si sono sobbarcate circa 80 pagine, se non di più, anche 100 forse, di traduzione dei documenti di questa sorta di processo che l'ONU ha tenuto a gennaio nei confronti della Santa Sede. Quindi, e questo è un documento, e ringrazio un'altra volta la Sinodoro, al momento è unico in Italia, nel senso che nessuno qui in Italia, giornalista o chi per lui, si è preso la briga di andare a spulciare fino in fondo quello che le accuse dell'ONU documentatissime nei confronti della Santa Sede per circa 24 anni di mancata applicazione della Convenzione. Infine, ecco, il mio ultimo ringraziamento va a Giovanni Senatore, che è l'ufficio stampa della Sinodoro. E il ringraziamento a lui è particolare perché a lui spetta l'ingrato compito, il difficilissimo compito di proporre ai nostri colleghi giornalisti, anche Giovanni è un giornalista, proporre ai nostri colleghi giornalisti un testo che sicuramente in questo momento va un po' controcorrente rispetto al flusso delle pubblicazioni che trattano argomenti in cui è coinvolta la Chiesa di Roma. E qui vorrei raccontare un breve aneddoto, poi chiuderei, passerei la parola ai relatori che ci racconteranno tante cose interessanti. All'inizio del mese ero a Torino al Salone del Libro, dove praticamente il mio libro ha fatto il suo debutto, e mi trovavo nello stand della RAI e seguivo questa trasmissione radiofonica su Radio 3, quindi diciamo non Radio Vaticana, e c'era un giornalista emozionatissimo nel raccontare che da quando Joseph Ratzinger ha passato il testimone, chiamiamolo così, da vivo sul soglio pontificio a Jorge Mario Bergoglio, fino ad oggi, cioè nell'ultimo anno in pratica, in Italia sono stati pubblicati, se non ricordo male, circa 325 libri su Papa Bergoglio, su questo gesuita francescano-gesuita. Case editrici italiane hanno pensato bene di pubblicare praticamente un libro al giorno. Ecco, anche il mio libro, non è un libro anticlericale, è un libro sulla Chiesa, è un libro sul pensiero religioso cattolico, c'è anche Bergoglio, è un libro anche su Bergoglio, però sono pronto a scommettere che nel calcolo che questo collega aveva fatto, questo libro non c'era. Ne sono praticamente certo. Ecco, io a questo punto passerei la parola agli esperti. Nel libro, sia nel primo che nel secondo, ecco, un filo c'è precisissimo, è che non mi limito a raccontare delle storie, anzi le storie rimangono per fortuna molto in sottofondo, chiaramente non sono storie belle da raccontare, però ecco, ho cercato di un certo tipo di formazione, di non limitarmi a rimanere in superficie, a fare un lavoro che comunque tanti altri colleghi hanno fatto in maniera molto valida in questi anni, andare in profondità per cercare di capire come mai, ecco, il fenomeno della pedofilia in generale, ma in particolare quello della pedofilia di matrice ecclesiastica, comunque attraversa la storia dell'Occidente ormai da circa 2000 anni. Come mai e perché ancora non si riesce a trovare non si riescono a trovare le contromisure adatte. Io vi ringrazio, ecco, ringrazio anche voi per essere qui così numerosi. Allora, dicevamo con Fulvio che probabilmente il collega non conosceva ancora il tuo libro, non gliel'avano proposto, dai, siamo ottimisti, scherzando ovviamente, magari, e quindi insomma diamo la parola a Fulvio Iannacco. Prima di passare a leggervi la comunicazione che ho preparato, volevo dire una cosa prima di tutto proprio personale sul lavoro di Federico Tulli, che ha costruito un libro che, nonostante che avessi già letto quello precedente, via via che lo leggevo, anche perché mi avevano chiesto di fare una recensione, si rivelava non soltanto, come mi aspettavo e sapevo anche dalle sue prove precedenti, assolutamente capace di una documentazione serratissima e di una costruzione del materiale assolutamente esemplare, ma anche, e l'ho scritto, di suspense, di thrill. È un libro che si legge molto bene, che si legge proprio, io che di solito purtroppo, come tanti di noi, tengo aperti tanti libri contemporaneamente e poi magari non ne finisco mai nessuno, questo libro me lo sono divorato, non perché avessi una scadenza, anche se era vero che l'avevo, ma proprio perché piglia questo. Ma la cosa che sta dietro questa cosa, che non è necessaria per un ricercatore, è soprattutto quello che dicevo prima, la straordinaria serietà e la costanza in questa serietà e ricerca. Federico Tulli ormai si è, con questo secondo libro, si qualifica come, non diciamo ancora un'autorità perché è un uomo giovane, ma un esperto al quale fa riferimento, e io credo anche questa sera noi che siamo qua facciamo questo tipo di riferimento, per cercare quindi, al di là della proposizione di un libro che è comunque valido, validissimo, di continuarla questa ricerca, di contribuire per quel che possiamo, ognuno con le sue specifiche competenze, le mie molto diverse da quelle degli altri due presentatori, molto più in qualche modo è per questo che parlo per primo, perché parlo di cose anche molto antiche, no? Da dove viene tutto questo in tempi, non so se dire fortunatamente molto remoti, ma purtroppo non mai definitivamente superati. Una ricerca che ha bisogno di porsi di fronte a delle cose che a me ancora, nonostante ormai non sia più di primo pelo, certamente continuano a stupire. Alcune le ha accennate Federico, questa, dal mio punto di vista, questa universale, assoluta, generale, dichiarata, poi bisogna vedere quanto sinceramente dichiarata, ammirazione per questo pontefice, risulta del tutto incomprensibile. A mio modo di vedere, per come sono abituato io, soltanto vederlo parlare evidenzia una ipocrisia palese, una falsità che ai miei occhi è assolutamente chiara, un po' come mi succede anche guardando uomini politici di primissimo piano, di grande centralità in questo momento nel paese, e che pure hanno un enorme consenso. Quindi chiedersi il perché di questo consenso, e chiedersi anche, non dico che risponderò, ma porsi questo problema, da dove venga, come sia questa cosa, è importante. Per me, almeno, io ho fatto questo. L'altra cosa che volevo dire, ma rapidamente, se no poi prendo troppo tempo, era che l'altro giorno io ho sentito l'intervista a Radio Radicale di Federico, e ho sentito con una emittente dichiaratamente laica un certo sforzo nell'ammettere, nell'accettare che fosse difficile pensare che da Bergoglio ci fosse da aspettarsi queste grandi riforme, questi grandi cambiamenti. E allora mi sono posto questo problema: è chiaro o non è chiaro qual è il pensiero, la struttura del pensiero cattolico, e non solo cattolico, di tutta una tradizione cristiano-cattolica, che sta dietro questi fenomeni criminali? E se conosciamo questi, è possibile pensare che ci sia un altro modo possibile di essere cattolici o cristiani? L'altra cosa, come mai la sinistra, che in teoria si è sempre basata su un'antropologia del tutto opposta, è stata così stregata dalla figura di Bergoglio, o almeno dice di esserlo stato, perché poi non possiamo sapere quanto ciò che viene dichiarato viene anche sentito e pensato. E quindi passerei a leggere questa comunicazione che su queste domande cerca di avanzare qualche punto, spero, fermo. Jorge Maria, mi rifaccio all'inizio allo stesso passaggio che citava Adriana di questa straordinaria intervista che Bergoglio ha rilasciato in aeroplano. Jorge Maria Bergoglio qualche giorno fa, sul suo volo di ritorno dal viaggio in Medio Oriente, ha detto, e qui devo ripeterlo un attimo, un sacerdote che compie un abuso tradisce il corpo del Signore. Il prete deve portare il bambino o la bambina alla santità. Sappiamo cos'è corpo, sappiamo cos'è santità? E questo si fida di lui. Invece lui lo abusa, è gravissimo. È un tradimento nei confronti di Dio grave quanto le messe nere, è stato appunto appena ricordato. Il cronista che ce lo racconta non sembra minimamente percepire l'orrore di queste parole pronunciate con l'abituale sorriso ebete e furbastro del complice notorio dei colonnelli fascisti argentini. Quel cosiddetto atto di pedofilia, che per la legge e per ciascuno è un crimine gravissimo, di un orco contro il corpo, la mente, la vita stessa di un bambino, per lui, che infatti non pronuncia una sola parola sulla sofferenza della vittima, è offesa sacrilega al corpo di un presunto signore che nessuno mai vede. Nella mentalità di questo personaggio, la santità dalla quale l'orco con il suo crimine distoglierebbe la vittima sarebbe infatti, e qui lo citiamo, compiere la volontà del padre, darsi interamente all'amore di Dio, rinnegare qualsiasi amore per le creature e il mondo, sensibile e intelligibile. L'orco per Bergoglio è quindi un ostacolo fastidioso a un progetto strutturato di dominio dei corpi e delle menti degli uomini sul quale da secoli il pensiero religioso basa la propria sopravvivenza e i propri privilegi. Ma noi siamo convinti che occorra anche denunciare con chiarezza un'ambiguità nella quale rischiamo di cadere noi laici che pure critichiamo severamente le prassi vaticane. Non portare quella critica alla radice ideologica di quei pensieri e comportamenti potrebbe infatti permettere di ipotizzare che potrebbe anche esistere un pensiero religioso diverso da quello, che potrebbe darsi cioè la realtà storica di una prassi ecclesiale che anziché comprendere, proteggere e perdonare gli orchi, si facesse intransigente difensore delle leggi dello Stato, semplicemente cioè li cercasse e li denunciasse ai carabinieri. Senza contrastare alla radice la struttura di pensiero che sta alla base di quel dominio ideologico, ciò è del tutto impossibile. Il pensiero che ammette e quindi poi perdona l'orco come peccatore piuttosto che criminale e gravissimo psicopatico è il pensiero religioso cristiano-cattolico in quanto tale. La struttura più intima della tolleranza e complicità ecclesiastica degli orchi va rintracciata nelle caratteristiche ideologiche basiche e costitutive di esso. Per proseguire in una critica radicale, ci serve dunque affrontare e tentare di comprendere la questione di che cos'è e su cosa si basa il pensiero religioso e da esso il cosiddetto concetto di male. Il pensiero religioso infatti si basa su un due, sulla dicotomia bene verso male, l'impossibilità di proporsi e realizzare una conoscenza evoluta e valida della realtà psichica umana ha costituito, e qui cito Massimo Fagioli, la sua fede nella immodificabilità della realtà umana, che sarebbe, così come ora, fin dall'inizio di una creazione creduta opera di un non materiale non pensabile da parte della stessa opera creata. Esso, il pensiero religioso, può soltanto credere e non pensare. L'esistenza umana si accompagna alla credenza nell'esistenza di ciò che non è umano. La ragione che non percepisce, non sente, non vede, non pensa le cose pensabili oltre le manifestazioni percepibili. Non si è separata dal pensiero religioso perché non ha scoperto l'origine di se stessa. Il pensiero religioso ha sempre creduto nella scissione tra materia evidente e spirito delle manifestazioni non percepibili. Questo era Napoli, 8 novembre 1999. la ragione, non percependo, non sentendo, non vedendo, non pensando, crea un due, crea fuori di sé, un diverso da sé, trascendente e mostruosamente non umano. Quel buono e quel cattivo, concreto, di ogni giorno, che ognuno di noi conosce direttamente nel proprio mondo concreto, quotidiano. Gli aggettivi che indicano in realtà qualità di cose e comportamenti, una cosa buona, una cosa cattiva, una persona buona, una persona cattiva, li pone, i filosofi direbbero li sussume, in uno scenario trascendente, infinito, sostantivizzandoli, rendendoli autonome cose, come bene e male, divenuti delirantemente autonomi oggetti metafisici. Con il mito della ribellione di Lucifero e della sua precipitazione, e poi con quello del peccato di Eva e la caduta e cacciata, si evidenziava che il male sta, il male, immaginatevelo se tutte le volte che lo dico sempre con la maiuscola, sta nella disobbedienza all'ordine posto nel creato dal creatore, in ciò che venne detto, e questa è un'altra parola chiave, concupiscenza, che è non nella creazione, ma proprio nella natura umana dopo la caduta. Feuerbach eroicamente provò a rifiutarla, quella scissione, a dire che il creatore inconsapevole del trascendente è l'uomo stesso, ma non aveva una scoperta scientifica, né aveva la realtà umana personale che sarebbe stata necessaria per uno scontro del genere. Fu sconfitto e dimenticato. L'archetipo di quanto ci interessa, in un mondo non più mitologico, come ai tempi del Lucifero e di Adamo ed Eva, ma storico, nel quale gli uomini cominciavano ad avere qualche fiducia in più nelle proprie possibilità intellettuali, come sappiamo, è certamente in Platone. Nella Repubblica, infatti, Platone fu il primo a parlarci delle aspirazioni dell'uomo come concupiscenza, il cavallo nero che trascina verso il basso la biga alata dell'anima. Il modello si costituisce da allora. Una naturale tendenza porterebbe l'uomo verso la realtà del mondo in cui vive, verso la realtà materiale. Tale tendenza contrasta la spinta del cavallo bianco che porterebbe l'uomo verso la verità delle idee. La spinta verso il basso anch'io. La spinta verso il basso, cedere ad essa, è appunto la concupiscenza, il male. Devo arrangiarmi. Grazie. Tale per ignoranza delle essenze sublimi, ci impedisce l'ascesa al sommo bene cui la ragione ci guiderebbe. Il cristianesimo con Agostino trarrà proprio da qui il proprio modello. Per Agostino i rapporti sessuali erano stati originariamente, nel disegno creativo di Dio, soggetti alla ragione, cioè alla procreazione, come per tutte le altre specie create. Fu dopo il peccato originale che l'atto sessuale implicò concupiscenza. Perdendo il proprio scopo divino di partecipazione all'opera del creatore, si ridusse la concupiscenza ad un appagamento futilmente transitorio. Creati nella e dalla materia dopo la caduta, discendenti e identici ad Adamo, siamo dunque tutti come lui e per natura peccatori concupiscenti. L'umanità è massa damnazionis, questo è Agostino. Tutti popoliamo la civitas diaboli. Solo la ragione, la mordea intellettualis che diceva Spinoza, l'itinerario mentis in Deo di San Bonaventura, può strapparci da quella schiavitù, illuminare la nostra mente a ciò che veramente è il sommo bene, che è Dio, a cercare quella appunto santità. Lo confermeranno Cartesio, Spinoza, Leibniz, anche Kant, da illuminista, dirà di voler liberare l'uomo da uno stato di minorità, ma poi dirà anche che nell'uomo, un legno storto, vi è costitutivamente un male radicale, una corruzione della natura che lo spinge ad agire solo per soddisfare i propri impulsi sensibili del tutto simili a quelli degli animali. Qualcosa che, è lui che lo dice, la gente comune si raffigura con i tratti del diavolo, qualcosa di ineliminabile, che l'uomo non ha certo la possibilità di cancellare con le sue sole forze. L'estirpazione di esso richiede l'intervento di Dio. La teologia cattolica ha sempre rivendicato a sé coerenza e coincidenza con una tradizione filosofica e un pensiero razionale di tal fatta. Non c'è contraddizione tra ragione e religione, le due R che vogliono dominare ancora la nostra cultura. Ed è da qui che discende logicamente la loro comprensione e indulgenza per gli orchi. È perché siamo tutti peccatori. Il mostruoso è nella nostra natura, di tutti noi, in conseguenza della caduta. Senza la ragione e grazia di Dio, il mostruoso ci caratterizza e ineluttabilmente ci domina. Da qui deriva la teoria cattolica, raramente pronunciata, ma sempre orribilmente sottintesa, che la colpa e provocazione stia nella vittima, nel bambino che non ha ancora raggiunto l'età della ragione. Tutto natura prerazionale, solo dopo arriverà la confermazione della cresima nell'età del discernimento, come dicono loro, è proprio lui il colpevole, seduttore e tentatore, al quale l'orco non riuscirebbe a resistere per una propria, ahimè, comprensibile fragilità troppo umana. È impossibile quindi compatirlo, questo pericolosissimo personaggio. Così confermerà poi Freud, il bambino è un polimorfo perverso, così sosterranno poi anche Foucault e Combandi. Mi sono incasinato, ma me la caverò. La colpa, ci sono, scusate, non posso togliere tempo ai colleghi. La colpa è ontologicamente nella natura stessa dell'uomo e come tale la descriverà poi anche il cattolicissimo Heidegger. Nell'uomo c'è il nulla abissale dell'esistenza inautentica, cui unica fuoriuscita, per farla breve, sarebbe l'eroe nazista che sa essere per la morte. Essendo tutti, proprio tutti, ontologicamente peccatori, tutto è possibile che sia. Ci vuole comprensione e perdono. Sono umano, aveva già detto il personaggio di Terenzio nelle Autontimo Rumenos, dunque nulla di umano mi può essere estraneo. E se l'immagine dell'umano viene costituita in 2000 anni di Logos in questa maniera del peccatore concupiscente, ecco che ne discende logicamente, e credo che sia questo poi che a loro importa veramente, la necessità e missione storica e metastorica della Chiesa, del Papa, del clero, di tutto quel mostruoso apparato complesso e pervasivo, in quanto esso solo è mediatore indispensabile, da qui Pontifex, quello che fa i ponti, con un Dio che ti ha condannato alla dannazione fin dai tempi di Adamo ed Eva, massa damnationis, diceva Agostino, siamo tutti noi. Solo loro infatti possono somministrare perdono e trasmettere la grazia. Nemica irriducibile dell'irrazionale e soprattutto dei bambini e delle donne, quell'antropologia sa mascherare la propria crudeltà dietro ipocriti e melliflui atteggiamenti e si basa su una gigantesca menzogna. L'uomo uguale ad Adamo è carne destinata alla putrefazione, peccato, concupiscenza. Per scampare all'inferno non può solo sottomettersi, aveva detto San Cipriano, extra ecclesia nulla salus, non c'è alcuna salvezza per lui senza la Chiesa. E come si può pensare che siano sottoposti come noi alle leggi dello Stato fatte da semplici uomini come siamo noi, che debbano anche loro come noi guadagnarsi il pane col sudore della fronte? Ma la sinistra? La sinistra, quasi tutta oggi, è cieca davanti a tutto ciò, che pure ha tutti gli strumenti per conoscere, ed elegge addirittura Papa Bergoglio a proprio modello e campione. La sinistra, da quando storicamente esistita, e fino a poco fa, tanto che molti di noi ce lo possiamo sicuramente ricordare, forse non tutti, si era sempre basata su tutt'altra antropologia e su un modo di pensare opposto, e proprio per questo era sempre stata laica e anzi addirittura, anche più spesso, ferocemente anticlericale. Di attacchi alla evidente falsità e corruzione dei preti, di cui tutti sanno, aveva sempre riempito le pagine satiriche dei propri giornali. Il suo contrasto a tutte le alleanze antipopolari fra il trono e l'altare, alle ripugnanti complicità clerico-fasciste, era sempre stato estremamente deciso. Le brigate internazionali in Spagna sparavano sulle truppe dei legionari fascisti che, benedetti dai cappellani di Mussolini e Franco, avevano una croce ben in vista sulla loro divisa. I partigiani nella resistenza giustiziavano senza alcuna esitazione i preti collaborazionisti. Nella visione della sinistra, non certamente Dio, ma l'oppressione sociale, il dominio, la diseguaglianza, il concreto e storico sfruttamento di uomini e donne e bambini gestito da uomini in carne ed ossa, non meno concreti, aveva reso gli uomini miseri, tristi e infelici. Non certamente il peccato originale, ma la diseguaglianza e la disperazione li aveva resi cattivi. La sinistra sosteneva che il cambiamento degli uomini è possibile. Per liberare gli uomini dall'oppressione storica occorreva organizzare un'azione storica, difficile, ma non impossibile. E attraverso questa azione intelligente e pertinace, attraverso periodi di alterne fortune, passi avanti, sconfitte, ma sempre imparando dai propri errori, anche l'attuale forma di dominio, come era sempre accaduto nella storia in precedenza, sarebbe alla fine stata superata e il sole dell'avvenire avrebbe illuminato il mondo. Ma c'era stato un punto di gravissima debolezza in questa visione. Un grande uomo dell'Ottocento, come sappiamo, aveva perso la propria ricerca dei suoi 19 anni e con l'intenzione di rivolgere contro l'economia politica una critica radicale dalla quale essa, nelle sue intenzioni, non si sarebbe mai più potuta risollevare, aveva invece idealizzato l'economia politica stessa. Il male si celava nella proprietà privata dei mezzi di produzione. Quando fossero state poste le basi di una produzione sociale, per tutta la società delle donne e degli uomini, le diseguaglianze sarebbero magicamente scomparse. Con esse e anche le stesse classi sociali, da lì sarebbe sorto l'avvento dell'uomo nuovo, un uomo diverso da prima. Magari in un altro momento potremo anche, e forse utilmente, chiederci quanto nel profondo della loro mente quei teorici e leader della sinistra davvero credessero che il programma d'azione che sostenevano avrebbe davvero portato a quell'uomo nuovo, ma certamente vi credettero, certo ingenuamente, milioni di donne e di uomini che li ascoltavano. Ma quando alla fine degli anni Ottanta i grandi sistemi sociali che avevano basato il proprio progetto su questa teoria, uno dopo l'altro, cominciarono a crollare su se stessi, tutto quel che ancora restava in pochi anni finì. Come Amalia Signorelli ha detto qualche settimana fa al Teatro Eliseo, nell'occasione della presentazione di un altro libro della stessa casa editrice, Le gambe della sinistra, sempre dell'Asino d'Oro, che edita appunto questo libro che stiamo presentando di Federico Tulli, tanta sinistra, tutta questa sinistra, o almeno la maggior parte della sinistra, lei ha detto, non seppe elaborare il lutto. Non fecero come fanno gli scienziati galileiani che hanno per motto provando e riprovando. Dopo aver preso atto della incompletezza e fallacia di quella teoria e degli errori commessi, non si sforzarono di capire bene fino in fondo le cause e le caratteristiche di tale errore per potersi poi volgere a nuove ricerche. Forse arroganti, non si guardarono attorno e così non poterono riconoscere il fatto che un'altra ben solida teoria dell'uguaglianza naturale per nascita degli esseri umani, che fin dai suoi inizi aveva denunciato pubblicamente quell'errore mortale, pregna di conseguenze sociali e politiche evidenti a chiunque voglia vederle, era già da tempo disponibile per tutti. Eppure essa continuava ad espandersi in sempre nuove ricerche ed approfondimenti, coinvolgendo un numero sempre più grande di donne e di uomini nella nostra società. Come fanno coloro che non faranno mai scoperte rivoluzioni, perché hanno sempre paura dell'ignoto e del diverso, preferirono portare il proprio senso di colpa e di fallimento ai piedi del già noto e conosciuto, la bimillenaria antropologia cristiana del Logos occidentale, che condanna l'uomo alla schiavitù eterna. Gli oppressi da guidare all'emancipazione e alla realizzazione divennero miserabili da assistere. E cominciarono a dire che Bergoglio era la nuova luce della sinistra, Così facendo, inginocchiandosi a Pietro, forse pensarono di salvare ciascuno il proprio personale ruolo, le proprie posizioni di rendita, nelle organizzazioni culturali, nei giornali. Così facendo evitarono di mettersi in scontro con gli avvelenatori che già da tempo, come avvoltoi, svolazzavano sulle loro teste e dentro di esse, gli Heidegger, i Lacan, i Foucault, i Basaglia, a ripetere la favoletta della carenza originaria e irrimediabile dell'uomo. Così facendo, e a una certa età può forse essere persino comprensibile, ma non obbligatorio, presero posizione a contrastare tutto ciò che si muoveva già da tanto tempo ormai e diceva di un'origine dell'uomo non perversa, di una possibilità di trasformazione reale per gli esseri umani in questa vita che per tutti noi è tutto quanto abbiamo. Però 200.000 copie dell'Unità vendute con a tutta pagina un disegno di Massimo Fagioli, più di 53.000 voti a Ilaria Bonaccorsi in queste ultime elezioni europee, accanto a un lavoro di ricerca di migliaia di persone che continua da quasi 40 anni e cresce sempre più ampiamente, rendono possibile pensare che prima o poi li ritroveremo tutti quanti accartocciati nella pattumiera della storia. Grazie a tutti voi. Allora, grazie a Fulvio. Allora, grazie a Fulvio Iannaco. Questo excursus nella storia del pensiero, insomma, ha chiarito che non può esistere un pensiero religioso diverso, no? Quindi questa indulgenza per gli orchi in realtà nasconde proprio questa impossibilità, no? Di tentare un pensiero diverso. Allora, Domenico Farnioli, ma chi è il prete pedofilo? Una caratteristica specifica. C'è una bella domanda, nel senso... Però prima di entrare in questo tema vorrei dire che appunto questo secondo libro di, anzi prima voglio dire che ho apprezzato l'intervento di, il dotto intervento di, e appassionato di Fulvio, e venendo al libro devo dire che io ho seguito un po' tutta la ricerca di Federico. E questo secondo libro segna, secondo me, un passaggio importante, nel senso che definisce molto meglio il tema e introduce soprattutto degli elementi, introduce una documentazione così serrata per cui è impossibile chiudere gli occhi di fronte a questo problema. Qui stasera ci sono io come psichiatra, c'è anche il collega Masini, e questo è un fatto importante perché in realtà diciamo nella storia del Novecento la pedofilia è stato un tema che la psichiatria non ha frequentato quasi per niente. I grandi testi, Kraepelin, Bleuler, i grandi manuali, i dizionari di psichiatria o di psicanalisi, praticamente se uno li consulta al termine pedofilia riportano poche righe, fra loro anche molto contraddittorie, per poi se poi andiamo al DSM-5 lì addirittura viene fuori che diciamo la pedofilia sarebbe un orientamento sessuale, poi corretta con interesse sessuale, come dire che uno nasce pedofilo così come nasce con gli occhi azzurri o con gli occhi verdi, insomma. Quindi è importante che gli psichiatri intervengano numerosi, ora stasera noi siamo prevalenti, ma insomma su questo tema perché, ripeto, noi non possiamo lasciare appunto alla morale o alle prigioni il problema, nel senso dobbiamo intervenire e comprendere di che tipo di malattia, perché a mio avviso è una malattia la pedofilia, si tratta, insomma. Ora, il termine pedofilia è stato introdotto nel 1886 nella Psicopatia Sexualis di Kraft Ebing, libro che ha avuto un grandissimo successo. Il termine pedofilia, non sto qui a insistere su questo aspetto, cioè è un termine estremamente ambiguo, perché appunto la filia non si capisce bene dove sia l'amore o l'amicizia per i bambini dei pedofili. Allo stesso modo anche l'altro termine, parafilia, che credo sia stato introdotto da von Gebsattel, ripropone lo stesso problema. Questo per dire che appunto la pedofilia è rimasta un oggetto sconosciuto in un certo senso per la psichiatria. Ora, nell'opera di... perché quindi praticamente Kraft-Ebing introduce questo concetto di pedofilia erotica, però questo autore forse non rimarrà famoso per questo, perché a mio avviso il suo merito maggiore è quello di aver messo, fra i primi sicuramente, in relazione la perversione e la malattia mentale, e l'ha messa in relazione con la vita religiosa. Più in generale si può dire che nel rapporto si va a cogliere un aspetto, cioè che nel rapporto con la dimensione del sacro, nel cristianesimo, c'è sempre stato il rischio di una deriva di tipo psicopatologico, complicata da condotte criminali, tra le quali per esempio rientra la pedofilia. E diciamo che questa deriva è ampiamente documentata nella storiografia. Sotto questo profilo, i due libri Chiesa e pedofilia, che diciamo Federico vuole giustamente considerare una diade inscindibile, no? Cioè, quindi non si possono separare, ma costituiscono un tutt'uno, potrebbe essere idealmente questa, la continuazione della storia criminale del cristianesimo, opera in 10 volumi scritta da Deschner Karl Heinz, che ho letto su segnalazione, è morto da poco, no? Cioè, i due autori hanno in comune lo scrivere la storia dal punto di vista delle vittime, cioè vengono riportati, analizzati, fatti, occultati nella letteratura apologetica e agiografica praticamente. Quanto poi alla domanda che mi faceva Adriana, cioè bisogna considerare, qui anticipo un tema, che tutta la formazione del prete è basata sulla sublimazione dell'istinto sessuale, in quanto prevede appunto il celibato. Cioè il concetto di istinto implica però che esso sia innato, ma noi sappiamo che alla nascita nell'uomo non solo non ci sono istinti, ma neppure sessualità. Quindi ci troviamo di fronte a un fatto sconcertante, perché si sublima, si desessualizza un istinto che non esiste. E questo alla base della formazione del prete c'è questo presupposto. Siamo rimasti al tempo degli eremiti del deserto, i cosiddetti santi talpa o pascolanti che rubavano il bestiame, che rubavano il foraggio al bestiame, che aggredivano i bambini occasionalmente incontrati nelle oasi. Esiste tutta una precettistica che dice che questo avveniva. Essi combattevano le tentazioni della carne, cioè gli istinti, cercando di distruggere il corpo. Ma in realtà erano in preda, chiaramente, a deliri e allucinazioni a sfondo erotico. Non è che combattevano il corpo, combattevano evidentemente le loro allucinazioni. Però io, questa è un po' una sorta di conclusione, vorrei raccontare come sono arrivato a queste considerazioni. Cioè, nel marzo del 2011, insieme a Federico, abbiamo incontrato un gruppo a Londra che si chiama i Survivors Voice Europe, che è un'associazione di cosiddetti sopravvissuti. Fuori, nella piazza antistante, la sala dell'incontro, c'era una locandina con una scritta che polemizzava con Ratzinger, dicendo: non tante belle parole, credo fossero le solite scuse, ma fatti, basta, enough. Cioè, no. Questo dicevo. Non insisto sul fatto che per i papi appunto c'è questa tendenza, cioè chiedere perdono non significa chiedere perdono, significa autoassolversi. Quindi questo si commenta da solo. Ricordo però che in quella circostanza, pur riconoscendo il sacrosanto diritto delle vittime di pretendere giustizia e risarcimento, ho pensato che si doveva andare oltre al confronto scontro con le gerarchie vaticane. Cioè il problema era affrontare la mentalità religiosa e scoprire ciò che alimentava la violenza sui minori. E ho scoperto con piacere che Tulli nei suoi libri mi sembra abbia condiviso questa impostazione, questo pensiero, e a suo tempo non gli ho comunicato. Cioè egli non approda solo a un anticlericalismo fortemente motivato e documentato in modo eccezionale, perché questo è il merito del libro, insomma, uno dei meriti del libro, ma propone attraverso il contributo di vari esperti una ricerca sulla psicopatologia della vita religiosa. Forse a noi è questo che manca nell'ambito della psichiatria. Molto opportunamente il nostro autore allarga il discorso a una riflessione più profonda sulla natura, una riflessione sulla natura più profonda e razionale del cristianesimo, nel quale ambito appunto si colloca la pedofilia clericale. Nel cuore dell'esperienza religiosa c'è appunto la dimensione del sacro, del quale il sacerdote dovrebbe essere il soggetto mediatore privilegiato. Allora, perché egli realizza un minus piuttosto che un plus e si comporta come un criminale comune o un malato di mente? Però a questo punto ci dovremmo chiedere cos'è il sacro. Cioè, qui mi limito a alcune considerazioni seguendo la ricerca fatta dalla collega Maria Gabriella Gatti nella prefazione del libro. Qui il discorso è abbastanza complesso. Comunque, il sacro è stato detto da Mircea Eliade una struttura fondamentale della coscienza umana, quindi un a priori, e non solo un momento della sua storia. Cioè l'esperienza del sacro sarebbe indissolubilmente legata allo sforzo che ha fatto l'uomo per costruire un mondo che abbia significato. Però che significato avrebbe un mondo in cui i preti, metà uomini, metà santi, cioè metà sacri, violentano i bambini? Il famoso teologo e antropologo Julien Ries, che va molto di moda fra cattolici, ha scritto che la comparsa dell'Homo sapiens nel nostro pianeta coinciderebbe con quella dell'Homo religiosus. Cioè, questo è il ragionamento che fa. Cioè, il prendere coscienza di sé dell'uomo primitivo sarebbe stato subito il prendere coscienza di altro da sé, cioè della presenza di una potenza misteriosa e invisibile nella realtà materiale. Questa sarebbe la struttura della coscienza. Essa avrebbe in se stessa una vocazione religiosa per una qualità innata, antecedente ad ogni esperienza e destinata a rimanere tale nel corso della storia. Quindi l'uomo nasce religioso e nei secoli dei secoli rimane religioso. Però l'uomo religiosus è fin dall'inizio alienato, non sa che la potenza che colloca nella natura altro non è che l'energia, la forza, avrebbe detto Goethe nel Fausto, della pulsione che si crea nei primi istanti della vita quando il pensiero emerge dalla realtà biologica. Alla nascita il neonato non ha coscienza di sé, ma è già il rapporto con il mondo ed è già una presenza umana. La coscienza, quando diventa certezza di se stessi, è condannata a rimanere religiosa. Ma non è detto lo debba per forza rimanere. Solo se è scissa da ciò che non è cosciente ed annulla il fondamento irrazionale dell'identità tipica della nostra specie. Qui, Rudolf Otto, altro importante studioso del sacro, già nel 1917 aveva definito il sacro come l'irrazionale nell'idea del divino. Però per lui sarebbe stata la presenza di Dio che suscita il terrore mistico, il sentimento del sublime, ineffabile ed irrazionale. Non sarebbe l'irrazionale che crea Dio. Non è Dio che crea l'uomo, ma è l'uomo che crea l'idea di Dio. Aveva detto, aveva già affermato Feuerbach, e vedo che Iannacco sorride, cioè nel senso, nell'essenza del cristianesimo nel 1841, spero che la citazione sia corretta, con la precisazione che è l'irrazionale, la pulsione di annullamento che crea l'idea di Dio e non solo la coscienza dei filosofi. Qui il discorso si fa interessante perché, volendo, dai libri di Tully, e questo è un grande merito, traspare in filigrana una nuova concezione del sacro. Esso va considerato un prodotto umano storico, culturale, con risvolti poi istituzionali, il cui fine è far fronte ad una crisi della presenza, cioè al rischio di non esserci nel mondo. Il sacro è l'alienazione dell'irrazionale che è dentro di noi, nell'idea del divino fuori di noi. Il divino diventa, nel cristianesimo, il trascendente, l'assolutamente altro, il Ganz anders. Ernesto De Martino, in alcuni scritti editi postumi nel libro Storia e Metastoria, sosteneva che l'origine del sacro sia rintracciabile nel vissuto di sentirsi gettati inermi nel mondo con il rischio di essere travolti. E questo vissuto Martin Heidegger riteneva una condizione originaria e la chiamava Geworfenheit. Massimo Fagioli ha tradotto il termine comparto animale, legando il suo uso nella filosofia di Heidegger alla funzione di annullamento. La Geworfenheit è il vissuto di chi non riesce più a ricreare la propria nascita e, avendola annullata, ha perso l'identità umana irrazionale. Quindi, in virtù di tutto ciò, il parto è ridotto allora ad una deiezione, questo è il termine usa De Martino, cioè, forse detto meglio, un'espulsione di materiale biologico come quella degli animali. Cioè la nascita umana è invece, come sappiamo da Massimo Fagioli, fantasia di sparizione, trasformazione, che crea una realtà biologica e psichica nuova che gli animali non hanno. E quindi la Geworfenheit, in quanto annullamento di ciò che è specificamente umano, è il pericolo estremo che minaccia e a cui si cerca di ovviare con la spiritualità astratta del sacro, una realtà fuori dal tempo e dalla storia. Questa era una premessa un po' complicata, ma necessaria. Cioè. E torniamo ora alla domanda che mi faceva Adriana Fannetteri. Quindi perché il prete diventa pedofilo? Allora, il concetto di sublimazione, come ho già anticipato, è stato utilizzato sia dalla psicanalisi che dalla Chiesa Cattolica. Esso si riferisce all'ipotesi psicoanalitica secondo la quale gli istinti sessuali, originariamente perversi, verrebbero desessualizzati per scopi creativi e per obiettivi di natura sociale. L'istinto sessuale, che essendo istinto sarebbe innato, perlomeno da Darwin in poi, andrebbe desessualizzato, altrimenti saremo del tutto uguali agli animali. Noi sappiamo invece che alla nascita non ci sono istinti, ma neppure sessualità. E quindi permettetemi anche a me di fare una citazione di Fagioli. La sessualità è identità sessuale, compare dopo che l'essere umano ha realizzato la propria nascita, svezzamento, visione dell'essere umano diverso e pubertà. Left, mi pare, 19, non mi ricordo esattamente il nome. Tutta la formazione del prete scorre sul binario privilegiato della sublimazione. Si dovrebbe desessualizzare, e qui aggiungo io, delirantemente ciò che nell'uomo non esiste, cioè l'istinto sessuale. Ora, quest'idea sconcertante risulta chiaramente presente nell'enciclica Sacerdotalis Celibatus di Paolo VI del 1967, in concomitanza col Vaticano II, quando c'era tutta una forte tensione che invece mirava a togliere il celibato, la castità, eccetera. Quindi questo sacerdotalis celibatus piomba come un meteorite, no? Però addosso ai preti, non addosso al Papa, come nell'opera di famosa opera di Cattelan, no? E che diceva Paolo VI? Diceva: il celibato nel suo è una fulgida gemma, strumento indispensabile per l'elevazione spirituale oltre l'istinto sessuale e desideri della carne. Desideri della carne è testuale, nel senso lui adopera questa espressione. Il sacerdote deve affrontare una quotidiana morte a tutto se stesso per essere più vicino a Dio. Il suo è un olocausto, cioè un sacrificio totale di sé. La solitudine, io direi meglio, dice lui, ma direi meglio io, l'isolamento sacerdotale non è il vuoto, perché esso è riempito dall'imitazione di Cristo. Cioè il celibato e la castità, per Paolo VI, non distorcerebbe la personalità, anzi contribuirebbe alla sua maturità e stabilità. E a proposito della sublimazione, afferma testualmente il pontefice: la scelta del celibato esige lucida comprensione, attento dominio di sé e sapiente sublimazione della propria psiche su un piano superiore. Quindi, qui siamo. Leggendo l'enciclica ci si rende conto di un fatto, cioè che i sacerdoti sono vittime, evidentemente, anche di questa, complici insieme di una concezione che è antiumana. Cioè devono annullare se stessi e devono realizzare ad imitazione di Cristo un essere per la morte ed affrontare il vuoto e lo smarrimento, il vissuto della Gewurztheit, che così si determina. Cioè essi devono cancellare la loro nascita, cioè la propria dimensione affettiva e irrazionale. Cioè devono diventare anaffettivi, in tutto simili a nazisti, come Heidegger, lo schizofrenico autore di Essere e Tempo e recentemente dei Quaderni Neri. Cioè la vita del sacerdote deposta sull'altare deve, dice il Papa, parole testuali, recare i segni dell'olocausto, che poi era il sacrificio, come saprete sicuramente, il sacrificio levitico del maschio senza difetto. Cioè l'uso del termine olocausto evoca lo spettro del totale annientamento fisico, come se, e questo è un passaggio fondamentale, io credo, la rinuncia alla sessualità comportasse una tendenza a procurare una lesione del corpo, cioè un attacco alla vitalità propria e altrui. È quello che i pedofili fanno. Quindi qui sarebbe il nucleo, diciamo, il fuoco di tutta la faccenda. Il concetto freudiano di sublimazione, adottato da Paolo VI e applicato alla formazione dei chierici, contrariamente a quello che diceva lui, può avere effetti devastanti. Cioè nel tentativo di sublimare, che poi annullare la sessualità come identità, la personalità intera si altera, aumenta il narcisismo e si ipertrofizza la coscienza. Questo paradossalmente lo diceva già Freud nel 1922 nell'Io e l'Esse. Ciò spiegherebbe lo sviluppo del cosiddetto narcisismo clericale, cioè favorito dalla cultura della Chiesa, cioè la grandiosità, un senso ingigantito della propria importanza, lo sfruttamento degli altri, la negazione che sfiora il delirio e che può giungere fino all'affermazione di una diversità ontologica fra chierici e laici. Quindi un razzismo elevato all'ennesima potenza grazie al sacramento dell'ordine che si somma a quello battesimale, anch'esso generatore, secondo Bergoglio, di una diversità ontologica dei credenti rispetto ai non credenti. Quindi i battezzati sono una razza a parte praticamente. La sublimazione non è altro che una formazione reattiva come quella di Santi Talpa. Allora siamo rimasti a Santi Talpa. C'è una difesa patologica, cronica, rispetto a un impulso perverso. Ora, come psichiatra posso tentare qualche considerazione. Cioè, dalla formazione reattiva, dal narcisismo patologico al costituirsi di una falsa personalità, il passo è breve. Il sé pubblico si ipertrofizza, mentre il sé privato, cioè la sfera dell'intimità e della sessualità, si atrofizza. Cioè, portato alle estreme conseguenze, il processo sopra delineato determina una grave alterazione dell'equilibrio mentale, più o meno sintomatica, insomma. Paolo VI, nella sua enciclica, si riferiva all'isolamento del prete e al suo vuoto affettivo. Il sacerdote, secondo lui, l'avrebbe dovuto riempire con l'imitazione di Cristo, cioè, poi il Cristo è il santo per eccellenza, il sacro per eccellenza. Però il sacro, come diceva De Martino, ha un carattere ambivalente, presentandosi come fascinans e tetremendum, come alter ed ater, cioè alterità radicale e oscurità insieme. Il sacerdote cerca Dio, ma trova il male, la negazione e il demonio. Trova la pulsione di annullamento al fondo del suo irrazionale alienato e corre il pericolo di impazzire. Cioè, nella sua vita, a questo punto, compare lo spettro della catastrofe. E come vi fa fronte a questo pericolo? Il prete pedofilo vi fa fronte creando un proprio rituale masturbatorio, che si contrappone a quello eucaristico diventato per lui privo di senso. In esso egli perfidamente attira e lucidamente coinvolge le vittime. Si mantiene così in bilico fra sé pubblico e privato. E qui interviene un altro fattore importante, cioè il sostegno e la complicità del clericalismo laico, altro grande imputato, e delle gerarchie ecclesiastiche, che lo confermano nel suo ruolo di pastore. Ciò consente praticamente che egli rimanga apparentemente asintomatico, mentre circoscrive il suo delirio alla sfera dei comportamenti masturbatori. Quindi nell'ambito di una intimità malata e violenta che gli impone alle vittime, ha modo di manifestarsi la sua volontà di ledere la vitalità altrui. Cioè la segretezza e le raffinate strategie di occultamento sono in funzione di un vissuto di onnipotenza che le permea. Cioè il sacerdote che non si rassegna a una religiosità rutinaria e razionale, come spesso avviene, burocratica e di facciata, è schiacciato nella relazione che cerca di stabilire con il sacro. Ed è schiacciato anche da un ideale che gli viene imposto e che si è paranoicamente imposto. Egli si rivolge allora ai bambini, in quanto solo in un rapporto totalmente asimmetrico, dove lui si pone come l'assolutamente altro, cioè un dio o un demone malvagio, egli recupera una illusoria e transitoria sensazione di potenza. Cioè l'abuso sui minori diventa una droga, che poi esaurisce alla svelta il suo effetto, fino alla nuova dose in una spirale, e si ferma di solito solo con l'arrivo dei carabinieri, insomma, quando arrivano. Perché la pedofilia clericale ha quindi una sua caratteristica particolare, che la distingue da altre forme di pedofilia. Cioè essa è un sintomo di una malattia in cui è coinvolto non solo il prete, ma anche l'intero apparato della Chiesa, nei suoi aspetti istituzionali e dottrinari. Cioè la Chiesa non può che cercare di occultare la realtà inquietante degli abusi dietro dichiarazioni ufficiali che lasciano il tempo che trovano. Essa sa bene che il problema non è costituito dalle deviazioni sessuali di singoli soggetti, ma è in discussione il suo intero modo di concepire la realtà dell'uomo e la sessualità. La Chiesa, società perfetta, aspira a rimanere sempre la stessa, semper eadem, ergendosi al di fuori del tempo e della storia. Cioè il progetto di una immobilità assoluta viene realizzato, come sappiamo, al prezzo di vite umane, sofferenze e torture indicibili. Tale sacrificio per le gerarchie clericali sembra non essere poi così importante per il narcisismo clericale. Importante è che l'immagine di Gesù e di Dio, legati da un matrimonio mistico con la Chiesa, rifulga in peritura nei secoli dei secoli. Grazie. Allora, grazie a Domenico Fargnoli, molto interessante anche dal mio punto di vista delle cose di cui abbiamo tanto parlato, no, Federico? Cioè degli ospedali psichiatrici giudiziari, del concetto di malattia mentale, insomma, no? Riporto un po' anche a un percorso che abbiamo fatto insieme, e quindi, no, anche questa relazione tra malattia mentale e sacro, e quindi la relazione tra malattia mentale e pedofilia, e quindi questa perdita dell'affettività. Allora adesso Andrea Masini, insomma, gli chiediamo il fulcro del suo intervento, immagino che sia come viene lesa quindi l'affettività invece delle vittime, no? Dei pedofili, in particolare dei pedofili religiosi, chiamiamoli così. I protagonisti del libro di Federico Tulli sono, a mio avviso, due. Come in ogni storia antica, uno è buono e l'altro è cattivo. Il problema è che da sempre si è tentato di dire il contrario di quello che dice questo libro. Se partiamo appunto con il bambino, dobbiamo dire subito che Federico ha alle spalle, e lo cita più volte, la ricerca di Massimo Fagioli sulla nascita, la teoria della nascita, che ha rovesciato questo paradigma della nostra cultura, che è di origine greca, antica, e questo è già stato detto, che ha posto al centro del mondo e delle sue speculazioni l'uomo adulto di genere maschile, annullando la donna e il bambino. Il bambino è sempre stato negato, in quanto non razionale come le donne. Si è sempre messo in discussione il suo pensiero e il suo sentire, perché, come le donne, sarebbe privo di ragione e di logica. Il mondo greco, lo sappiamo, comincia a considerarlo all'età della pubertà, perché è lì che comincerebbe la ragione, ed è infatti lì che il filosofo comincia a occuparsi di lui, con quella storia famosa che è la Paideia, l'educazione del fanciullo, che era affidata ai maschi nell'antica Grecia, innanzitutto. Nel mondo romano cominceranno ad essere le donne. Le donne nel mondo greco si occupano soltanto della prima infanzia, ma tutto ciò che è educazione è di competenza degli uomini. E qui, sapete, c'è quella storia tremenda della pederastia, in cui appunto l'uomo maschio, il filosofo, il precettore, diremmo, quello a cui l'adolescente viene affidato, e viene affidato dal padre, di solito, appunto, che ne ha seguito la crescita, sarà quello poi che in una sorta di rito di iniziazione ne abuserà. Nel mondo greco c'aveva, nel mondo cretese in particolare, tutto un suo rituale, per cui erano gli amici che, avendo individuato un saggio, un filosofo, un uomo di spicco, gli portava l'adolescente e si ritirava con questo filosofo, con questo adulto, in un luogo segreto, per almeno o per un massimo di 2 mesi. Quindi l'iniziazione del giovane nel mondo della cultura avveniva attraverso la violenza, lo stupro. Questo è il mondo greco, e questa storia noi l'abbiamo raccontata tante volte, ma credo valga la pena di riraccontarla, perché appunto poi tutti siamo sempre molto affascinati, molto orgogliosi di questa origine greca. Poi sappiamo, e questo di nuovo è stato citato, ma permettetemi di rifarlo brevemente, passati 2000 anni di cristianesimo per l'appunto, ma il discorso viene riproposto da Freud, che dice che il bambino è portatore di una sessualità perversa, che avrebbe nell'amore per la madre e l'odio per il padre la sua massima espressione di sanità, il famoso complesso di Edipo. Poco si racconta, noi l'abbiamo fatto, di quando e di come Freud invece cominciò la sua ricerca, giovane medico a Vienna, con quella che fu chiamata da Masson la teoria della seduzione. Nel senso, lui aveva ben presente, cominciando la sua carriera, che il problema della pedofilia, il problema dell'abuso in famiglia, era diffuso nella borghesia viennese dei primi dell'Ottocento. Lui pensò che questo potesse essere una delle cause della nevrosi, della malattia, e cominciò da questo e lo raccontò all'Accademia Medica, che ebbe una reazione violentissima. Probabilmente perché molti di loro avevano problemi di questo genere. Freud coraggiosamente fece marcia indietro e da quel punto, per tutto il suo lavoro, disse che non era un problema di seduzione reale, ma era un problema di fantasticherie dei bambini che avrebbero voluto essere violentati e avrebbero voluti essere, come dire, oggetto di attenzioni di tipo sessuale. Questa falsità violentissima è arrivata e continua ad arrivare in tanti messaggi anche nella nostra cultura. Anche lì è stato citato Foucault, che più volte scrisse che appunto il bambino poteva aver desiderio di avere un rapporto sessuale con un adulto e che questo era una cosa buona, giusta, interessante, utile. Ha ripetuto Pasolini, Busi, e ce ne sono tante di citazioni. E quindi riproponendo tale e quale il discorso dell'antica Grecia. Noi oggi sappiamo bene che è l'annullamento della dinamica della nascita il presupposto di questa follia, il non aver visto, il non aver pensato per 2000 anni che alla nascita si ha quella trasformazione istantanea che porta ad una sensibilità che è innanzitutto capacità di immaginare, e cioè di pensare, che fa del neonato una realtà che ha già in sé tutte le possibilità di realizzazione personale e che dovrà poi solo sviluppare. Annullare il bambino per poi distruggerlo toccandolo è quindi il massimo della violenza pensabile e ne fa, nel migliore dei casi, un uomo o una donna sofferente, ma nel peggiore un criminale a sua volta capace di ripetere i crimini che ha subito. Io sono uno psichiatra che lavora in un servizio pubblico di salute mentale e, come credo quasi tutti i miei colleghi, abbiamo una lunga esperienza di questi fatti, che non sono per niente rari, anzi sono piuttosto frequenti. E anche qui, lo diceva Domenico, la psichiatria, quella condivisa cosiddetta, non ci aiuta molto. Il DSM-5 lo riannovera, come il precedente 4 TR e il precedente, quindi da diverse decine di anni, annovera la pedofilia tra le parafilie, che appunto, questo Domenico non l'aveva specificato e quindi mi prendo il tempo per farlo, sono le deviazioni sessuali, cioè travestitismo, voyeurismo, esibizionismo, feticismo. Ma appunto credo che non ci sia discussione da fare sulla differenza tra la pedofilia e queste altre forme più o meno bizzarre, più o meno divertenti o più o meno gravi. Hanno aggiunto disease, che in inglese vuol dire malattia, non vuol dire disturbo, come a dare l'idea che allora stanno considerando la, la pedofilia nel senso di malattia. Sapete, questo DSM quinto è frutto di discussione dei più grossi psichiatri americani, che discutono per anni prima di arrivare a codificare questa cosa, che poi di fatto viene un po' utilizzata in tutto il mondo. E lì c'è quel discorso che ha fatto sempre Domenico, c'è l'idea che la pedofilia possa essere un orientamento sessuale, cioè possa in alcuni casi non essere una malattia, in alcuni casi, cioè essere un, ovviamente lì dove specifica il manuale non c'è l'agito, quindi lì dove rimangono dei desideri del soggetto potrebbero essere un orientamento sessuale. Questo ha scatenato già grosse polemiche, perché appunto è un po' l'iter che fece l'omosessualità nel 68, cioè quello di essere considerata, non essere più considerata una malattia ma un orientamento sessuale, e quindi poi essere, come dire, accettato nella nostra cultura. Questo ovviamente non è pensabile con la pedofilia. Potrei raccontarvi, perché li ricordo con chiarezza, i tanti casi che ho visto: la bella donna madre di un bambino che era stata abusata dal padre, o un'altra oggi donna manager, o la ragazza di 20 anni che lo aveva subito dal fratello, o quell'altra che invece l'ha subito dal cugino, o la bellissima ragazza serba. Ma tutti hanno in comune delle cose. Intanto sono storie di anni che cominciano prestissimo, che si ripetono in famiglia a tempi di anni, con appunto la ripetizione, per cui questi bambini dormono con l'angoscia di essere svegliati. Questo lo raccontano in tanti. Ma poi soprattutto l'orrore della negazione da parte della madre o del padre o di entrambi, in una complicità devastante per il bambino, per la quale le persone più importanti ti fanno del male e poi, e questo è anche peggio, negano che questo sia mai successo, condannando la vittima ad una rabbia senza possibilità di giustizia, ad un odio senza possibilità di trasformazione, ad una chiusura nei confronti del mondo e dei rapporti interumani che può diventare malattia. Anche se per fortuna molti si ribellano a questo destino e trovano una umanità che porta però i segni della violenza subita. Insopportabile, e poi l'accusa, e anche questo è stato detto, di essere complici del violentatore per quel legame di affetti, oltre che di parentela, che li lega. Insostenibile l'idea di stare male per qualcosa che viene dalla persona che amavi e dalla quale ti fidavi e che avrebbe dovuto proteggerti. Per salvarti dovresti fare una separazione immediata da colui che ti uccide pur lasciandoti in vita, ma che spesso è così difficile, se non impossibile, data l'età delle vittime molto piccoli. Al contempo mi è capitato di seguire anche i colpevoli. Raramente, ma i pedofili vengono all'ambulatorio, a volte perché sono stati, come dire, intercettati dalla giustizia. Ma ho cominciato, ve l'ho forse alcuni già raccontato, con quel famoso Luigi Chiatti che andammo a trovare con due amici nei primi anni 90 in un carcere di massima sicurezza, dopo che aveva riempito le pagine dei giornali. Credo che il caso lo ricordate, l'abbiamo citato più e più volte. Anche lui, questo lo ricordo sempre, era stato presumibilmente abusato. Era un ragazzo che era stato adottato da una coppia benestante, il padre era un medico, era stato adottato grande a 7-8 anni, e quindi raccontò che era stato abusato nell'orfanotrofio dove aveva vissuto fin lì. Quella assoluta mancanza di affetti che neppure il paziente più grave presenta, il nostro schizofrenico, che con le sue idee deliranti alterna disperati tentativi di rapporto che si rompono continuamente per quella pulsione di annullamento che immediata stabilisce un'anaffettività, che poi può essere rimessa in crisi in un alternarsi di dissociazione fredda e momenti pseudodepressivi nei quali si percepisce una sofferta umanità. No, il pedofilo non ce li ha. Sembra realmente incapace di qualunque elementare capacità di relazione affettiva. Sembra del tutto estraneo a quel mondo degli altri che non capisce, che non prova, che non vive. Diventa ragion pura, lucidità solo cosciente, che alle volte sembra permettergli un rapporto con la realtà apparentemente esatto, molto più esatto di quello dello schizofrenico, sempre inficiato dai suoi pensieri folli. Sembra normale, si atteggia a persona buona e degna di fiducia, ingannando il bambino ingenuo che si fida realmente. Allora il pedofilo si realizza come il peggiore dei criminali e cerca soddisfazione nella distruzione della realtà psichica altrui, prima e insieme a quella fisica, come avvenne con Chiatti. L'altro protagonista del libro di Federico, però, il cattivo appunto, non è solo costui di cui vi ho accennato, il pedofilo, ma è la Chiesa che li copre. Ma questo forse è già stato detto e molto meglio di me da chi mi è preceduto. Voglio solo ribadire come hanno sempre cercato di nascondere la verità e hanno sempre proposto il contrario della verità che invece il libro affronta. La religione cristiana si è sempre presentata come la religione dell'ama il tuo prossimo come te stesso, ma la sua storia ha sempre dimostrato il contrario. La protervia e la pervicacia con la quale, nonostante fosse emerso su tutti i giornali del mondo per un anno il cosiddetto scandalo della pedofilia in Irlanda come in Belgio, in Inghilterra o negli Stati Uniti, nonostante fossero stati condannati da tribunali sicuramente imparziali ad ammende milionarie, nonostante tutto questo la Chiesa ha il coraggio ancora 6 mesi fa di non rispondere alle richieste di chiarimento della Commissione sui diritti umani di un organismo autorevolissimo come l'ONU, il quale solo dopo non aver avuto alcun chiarimento pubblica un documento nel quale richiama il Vaticano di Papa Francesco non più tardi di 3 mesi fa al dovere di fare chiarezza sulle modalità con le quali la Chiesa ha intrapreso un'azione per cercare di bloccare questo fenomeno criminale diffusissimo nel suo interno. E ancora questa, dopo solo qualche melliflo ipocrita bizantinismo di tipo se, ma, bisogna distinguere, ripropone la stessa strategia volta a proteggere il clero, ma soprattutto il buon nome della Chiesa Cattolica. La stessa strategia, racconta il libro di Federico, che aveva adottato negli anni 60, 40 e passa anni fa, per evitare che il fenomeno diventasse noto a tutti. E alla fine i giornali scrivono che la Chiesa si sente offesa dall'ingerenza dell'ONU in un fatto che considera interno alle sue istituzioni. Allora, come disse, e questa è una frase che ho trovato, Massimo Fagioli tanti anni fa, nel 2002 in realtà, in questo, cito testualmente, in questo ama il tuo prossimo come te stesso, ci fu soltanto un abbozzo, un movimento all'inizio del pensiero cristiano, 2000 anni fa, di proporre, di cercare un'identità nuova basata sul rapporto interumano e non soltanto sulla ragione. Poi, aggiunge sempre Fagioli, forse in queste cose i tentativi parziali che non abbiano una struttura di pensiero molto forte sono destinati non solo a morire, ma a rovesciarsi nel contrario. Mi verrebbe da dire, parole testuali, che sono destinati a diventare pazzi e magari pazzi e criminali. Questa idea del cristianesimo, questo sono io, forse rappresentava qualcosa di nuovo 2000 anni fa, il superamento dell'homo homini lupus, della legge del taglione, ma su quale base ciò potesse basarsi lo hanno raccontato meglio di me chi mi ha preceduto. come psichiatra mi viene solo da domandarmi come sia possibile amare qualcuno se dentro c'è solo odio, rabbia e aneaffettività. Di quale amore si parla se il prete è un malato gravissimo, un criminale? Di quale amore si parla se la Chiesa invece di proteggere le vittime le difende, le offende? Non ci può essere nessun amore per gli altri se non c'è prima una trasformazione degli esseri umani. Allora è come se in questa sacrosanta verità di uguaglianza e di solidarietà umana che c'era all'origine non fu mai sostenuta da un pensiero adeguato. La Chiesa si alleò subito al potere, fin dalle sue origini, fin dall'imperatore Teodosio nel IV secolo d.C. Si è fatta potere e strumento di potere per tutta la sua storia, ha dominato e ha cercato di imporre con la forza i suoi principi e non ha mai smesso, neppure di fronte al delitto più afferrato. Ha cercato sempre e purtroppo cerca ancora di proteggere le sue istituzioni. Ha cercato e ancora cerca di sembrare paladina di giustizia e di uguaglianza, ma soprattutto, e questa la cosa più pericolosa, continua a rivendicare di avere l'unico pensiero valido sulla realtà umana, fatto di male e di bene, di diavoli e di streghe, di peccati e di opere di bene, di inferno e di paradiso. E molti sembrano dargli retta, non si accorgono di un'ideologia che da migliaia di anni continua a proporre il peccato originale, ovvero che il bambino è fin dalla nascita segnato da una colpa gravissima per qualcosa che non ha mai commesso e della quale non potrà essere emendato se non parzialmente sottomettendosi all'autorità della Chiesa con il battesimo. Allora, grazie ad Andrea Masini per la sua puntuale relazione. Adesso è la volta di Federico Tulli. Io avevo detto poco prima sul suo libro, da collega giornalista devo rilevare, lo hanno detto anche gli altri relatori, la raccolta veramente puntuale delle informazioni. Ci sono delle note poderose, insomma, che comunque sono già un lavoro importante e soprattutto quella caratteristica che tu non hai mai perso, insomma, nello svolgimento, diciamo, un po' dell'intrigo, cioè molto interessante secondo me quando racconti un po' gli affari dello IOR, quindi anche gli intrecci, no, che ci sono tra gli affari, diciamo, tra l'economia e anche determinate vicende che attraversano la pedofilia. E poi a un certo punto dici che non c'è una statistica precisa in Italia sul numero dei pedofili e quindi a maggior ragione non c'è una statistica precisa sui casi di pedofilia che riguardano appunto, che hanno come autori persone appartenenti alla Chiesa. Allora io ti chiedo ovviamente di raccontarci qual è stato, diciamo, il momento più difficile, no, nell'approccio a questo libro. E che cosa ti aspetti come reazione? Insomma, il caso italiano è un caso italiano perché c'è il Vaticano qui e ti aspetti anche qualcosa dopo? Il fulmine spero non adesso, perché siamo in tanti. Aiuto. Dunque. No, la difficoltà, devo dire... Non penso che ci sia stata una difficoltà. Adesso mi viene da fare una battuta. Sì, ci sono parecchie note, parecchie fonti, abbastanza documentato il libro. Così a spanne l'80% delle fonti me le ha fornite il Vaticano stesso, molto probabilmente a sua insaputa, perché il sito della Santa Sede è veramente una fonte inesauribile di notizie, di informazioni di cui loro probabilmente non si rendono nemmeno conto. Nell'intervista che faccio a Domenico Farnioli alla fine della seconda parte, appunto, inizia proprio citando un passaggio che secondo me è agghiacciante e molto significativo. Cioè, nel 2012 questo padre Lombardi, che è una persona potentissima all'interno della Santa Sede perché è il portavoce della sala stampa vaticana, sarebbe il portavoce quindi del portavoce del Signore, racconta questa cosa. In pratica, lui dice, proprio un comunicato ufficiale, per circa 20 anni, dal 1960 al 1985, la nostra politica nel gestire questi casi è stata questa, cioè dare a ciascun vescovo di ciascuna diocesi sparsa nel mondo la piena autonomia nella gestione delle chiamiamole notizie di reato di cui venivano a conoscenza, cioè delle voci che iniziavano a circolare su determinati sacerdoti. Quindi vigeva una politica di decentramento, Roma se ne infischiava completamente della questione, i singoli vescovi avevano in mano tutta la storia e loro potevano agire in due modi: confessare, cioè dopo aver indagato, aver appurato che effettivamente le voci corrispondevano al vero, o richiamarlo a una vita, semplicemente a una vita più seria, morigerata, insomma, dopo averlo confessato, assolto e condannato, tra virgolette, a pregare l'Ave Maria per non so quanti giorni, oppure, e qui sta la cosa molto particolare, il vescovo aveva l'autorizzazione a curare il sacerdote, cioè a prendersi, non prendersi cura, proprio a curare, cioè si doveva trasformare, tra virgolette, nel medico del matto, ma la cura per la Santa Sede, per la religione, si intende esorcismo. E quindi, diciamo, questa è una prassi che una volta finita la cura, una volta finita questo, diciamo, il trattamento, che cosa è accaduto per almeno 20 anni, dal 60 all'80, dal 62 all'85, questo lo dice padre Lombardi. Dice, ci siamo resi conto che alla fine questa politica si è rivelata disastrosa, perché una volta curati e guariti, quindi esorcizzati, ovviamente che cosa succedeva? Questi sacerdoti continuavano il loro magistero e venivano quindi rimessi in circolo, magari non sempre nella stessa parrocchia, molto spesso venivano spostati da un'altra parrocchia all'insaputa dei parrocchiani e dei loro figli. E dice, ci siamo accorti che in questo modo il fenomeno della pedofilia clericale si è diffuso in tutto il mondo. Ecco, lui l'ha raccontato, l'ha scritto come lo sto raccontando, cioè in questa maniera piuttosto asettica, ma molto tranquillo. Dice, adesso abbiamo pensato di affrontare la questione in un altro modo, ma comunque per 40 anni la storia si è sviluppata in questo modo. Ecco, questo è un piccolo esempio. Io potrei terminare così, oppure cosa posso dire? Se posso permettermi, cioè mi sembra chiaro che c'è una completa assenza del concetto di malattia mentale, insomma, nella Chiesa. Insomma, mi pare che sia emerso chiaramente, forse possiamo chiedere poi agli psichiatri. Sì, questo penso di poterlo affermare dopo averli intervistati, appunto, sia nel primo che nel secondo libro, tra Andrea Masini, Domenico Farnioli, Annelore Omber, Maria Gabriella Gatti, insomma ce ne sono una decina e tutti quanti convengono su questo punto. Diciamo, ecco, da giornalista direi che il Vaticano, la Santa Sede, i gerarchi della Chiesa, dal Papa fino all'ultimo dei sacerdoti, non si rende assolutamente conto della gravità di questo crimine. Cioè, secondo una logica che mette, l'hanno già detto anche loro molto meglio di me, in primo piano l'esigenza di tutelare l'immagine pubblica della Chiesa, la dico così, che poi tradotto in soldoni e proprio in soldi è l'esigenza di tutelare il potere della Chiesa, e il potere viene dal denaro, e il denaro sono le offerte, e offerte che la Chiesa ha cominciato a perdere quando il fenomeno si è diffuso soprattutto in Europa, nel nord Europa, ad esempio in Irlanda, dove fino al 2005 la popolazione cattolica corrispondeva a quasi il 70% del totale. Dopo 6 anni di pontificato hanno fatto un sondaggio, gli irlandesi cattolici erano scesi al 47% grazie all'opera di pulizia e di tolleranza zero di Joseph Ratzinger, perché in Irlanda è accaduto si è verificato uno degli scandali più tremendi, se si può usare questo, e si è portato avanti per oltre 60 anni dal dopoguerra fino alla fine degli anni 2000, degli anni 90, ecco, scusate. E quindi malattia mentale, no, non hanno assolutamente idea che sia un discorso di malattia mentale. Per loro la pedofilia, oltre a essere un atto sessuale, e credo di poter dire che di sessuale non c'è nulla in un'azione violenta di questo genere, rimane un abuso morale, un'offesa a Dio, cioè una violazione del sesto comandamento, non commettere atti impuri. Joseph Ratzinger, da Papa Emerito, a settembre 2013, lo scrive tranquillamente, anche lui, come padre Lombardi, su Repubblica, rispondendo a Di Freddi, che aveva osato criticarlo in un libro dove Di Freddi elencava tutta una serie di insuccessi e di malefatte che Benedetto XVI aveva compiuto in 25 anni di prefetto dell'ex Sant'Uffizio più altri 8 da pontefice. Per difendersi Ratzinger risponde a Di Freddi e gli dice: in quanto a queste accuse di aver coperto, insabbiato, tutelato l'immagine della Chiesa piuttosto che pensare a preservare appunto i diritti e la salute dei bambini, le dico che io non ho mai coperto questi abusi morali. E lo scrive esattamente così. Lui li considera abusi morali. Ora, quindi, se continua a rimanere un'idea di questo tipo riguardo questo crimine, e qui c'è l'accusa più pesante, secondo me, che fa l'ONU, e l'ha già accennata Andrea, se c'è un retropensiero di questo tipo, cioè se non si ha assolutamente idea di che cosa si sta andando ad affrontare, quando appunto questi papi parlano di tolleranza zero, di far pulizia, di volersi preoccupare delle vittime, eccetera eccetera, l'ONU dice: dovete cambiare il vostro modo di pensare, dovete completamente capovolgere la vostra cultura. La pedofilia è un crimine e non un delitto contro la morale, non un'offesa a Dio. Bene, io non so se possiamo dare spazio a qualche domanda o dobbiamo chiudere, non so com'è l'organizzazione o se qualcuno dei relatori vuole aggiungere qualcosa. O se aspettiamo una recensione dell'Avvenire per vedere se riusciamo a cambiare la mentalità, non so, ditemi voi se volete intervenire, altrimenti insomma io direi che possiamo chiudere questo pomeriggio con un grande ringraziamento a tutti i relatori, al pubblico, all'Asino d'Oro, che devo ringraziare anche a mia volta per il lavoro che ho svolto con loro, e sottoscrivo quanto ha detto Federico Tulli, insomma è difficile trovare case editrici che si occupino di determinati argomenti e lo facciano con tanto coraggio e tanta franchezza, insomma ne abbiamo bisogno, e speriamo insomma che questo sia un buon auspicio anche per il futuro, insomma per il volume terzo e per tutto il resto che ci riguarda. Grazie e buona serata.